Allora, vediamo chi desidera parlare, un primo round. Padre Giacomo. Dunque, professor Rizzi. Padre Giacomo. Chi ancora? Un Sartori. Ovviamente padre Giuriati. Canova, altri, Monsignor Duilio Bonifazio, Bonifazi, ecco. Chi viene interviene, salvo, normalmente dica a chi rivolge la difficoltà o la domanda di chiarimento, se si tratta di questo, mi faccia un piacere. Dunque, se non c'è altri, io do subito la parola. Padre Giacomo, già che è qui. Controlla. Allora, una prima annotazione a padre Beltrame, quando sarebbe da aggiungere, a proposito della tematica della povertà, e da ricordare quindi per l'intreccio successivo, che non ci sono solo le fonti francescane della prima metà del 200, ma ci sono anche le fonti dell'ordine dei predicatori, che prima ancora, perché fondato prima, di San Francesco, aveva come punto base la povertà, tanto da vestire Domenico, come i suoi canonici di Osma da cui proveniva, con la tunica bianca degli arabi spagnoli. E in particolare nelle Vite Fratrum, questo si evidenzia bene, è un'opera della prima metà del 200. Sempre su Beltrame, per quello che riguarda Morales, volevo fargli notare che bisognerebbe spiegare un po' l'accezione che si dà o che davano, non ho capito, a mito, al mito del selvaggio, ma a mito. I miti bloccano, ma i miti come le favole sono invece enormemente liberanti. Bisogna vedere invece come veniva inteso il mito da chi ne parla, eventualmente ne parlava. Due altre osservazioni. Carlo V, Carlo I, prima Carlo I, poi diventa Carlo V dopo il 19, quando con l'aiuto dei banchieri di Genova e di Augsburg e con qualche aiuto fiorentino acquista l'impero, cioè paga i grandi elettori e viene eletto imperatore. Molto spesso è preso da problemi di coscienza Carlo V, per esempio nei momenti in cui deve restituire ai genovesi quello che gli hanno imprestato, perché ha il problema di coscienza di pagare dei tassi troppo alti contro la dottrina della Chiesa che vieta l'usura, e allora non vuol restituire per motivi di coscienza. Carlo V non aveva coscienza ed era infatti un grande imperatore, è stato un grande imperatore. Se avesse avuto coscienza sarebbe stato in un monastero a pregare per sua nonna Isabella di Castiglia, grande prostituta. L'autorità per risolvere il dubbio di coscienza sta in chissà. È la dottrina della Chiesa, è la dottrina di Tommaso, altrimenti con la democrazia, cioè col consenso, rappresenta i due piloni del nominalismo etico, almeno a sentire il nostro amico Italo Mancini. Il dubbio indiano porrà questione sull'autorità papale. Morales, leggi il commento del Gaetano alla questione sullo scisma nella seconda. Il Gaetano è chiarissimo. Il Papa non è il formale. Noi non siamo sub uno. E dunque, non essendo sub uno, perché l'unità della Chiesa non deriva dal fatto che c'è il Papa, il Papa stia a casa sua e faccia il suo lavoro, come diceva recentemente faccia molti viaggi, ma nella curia pontificia non vada a rompere l'anima in posti di cui sa niente. Viene in Veneto, in Friuli, dice come sono bravi e cristiani i friuliani e i veneti. Ciccia, io preferisco stare a Genova, qui non c'è il paradiso terrestre. Ma, bon, invece a Bottasso, per Bottasso vorrei solo notare due o tre cose. Primo ci dobbiamo ricordare, e non è un caso, che Don Coco, non Luis Coco, Luigi, perché è un piemontese, Coco è stato uno dei più grandi rappresentanti della resistenza in Piemonte. Uomo ardimentoso, ha sfidato la morte, dirigeva una radio nascosta in Valdocco, che teneva i collegamenti con gli alleati e permetteva a tutti i nostri combattenti in Piemonte, ma 700 di loro erano calabresi, che ne dicano le leghe, erano calabresi 700 sulle montagne del Piemonte, e Coco è andato in Amazzonia perché ha fatto la resistenza, altrimenti finiva nelle braccia della Fiat, come tanti altri suoi confratelli salesiani di Torino. Secondo, io ho detto che sbagliavano prima e sbagliano adesso, ma ragazzi, sbagliamo sempre perché siamo nel penultimo. Occorre conoscere la cultura, certo la cultura materiale, l'unica cosa che interessa, sapere come quella gente si fa da mangiare, se sono o no raccoglitori. Ultimo dato, forse ne parlerà il mio confratello, ma insomma i nostri padri che sono nella foresta amazzonica, di questi, quella peruviana, uno ha fatto la sua tesi di dottorato a Parigi con Lévi-Strauss di antropologia ne sa quasi niente, mi diceva questo suo allievo, perché ha fatto 10 campagne di 2 mesi ogni anno. Lui sono 35 anni che è là e attraverso la cultura materiale può annunziare l'Evangelo a persone che ritengono che i bambini nascono perché lo zio materno ha attraversato la radura mentre c'era la luna piena, e che ritengono che il primo figlio della dodicenne che ha usato il suo sesso come tutti gli altri solo ludicamente, capiamo, solo partendo dalla realtà materiale, perché il verbo si è fatto carne, stiamo attenti ad evitare ogni forma di razionalismo. Andiamo in Germania per capire bene come va ucciso Hegel. E sì. Finisco. Grazie. Professor Rizzi, Giacomo ha tanto prestigio e autorità. Ah, no, scusa, stavo per dire una malignità. Dicevo che può permettersi di voltare le spalle alla. Io ne ho altrettanta, per cui, purtroppo. Ma invece la necessità. Come non detto. E non so se riuscirò a stare dentro i 3 minuti. Ah, no. Lei è uno di quegli interventi corposi, sono tre, di cui ho parlato prima. Allora voglio dare un'informazione, fare un tentativo di chiarificazione, questo richiederà almeno tutti interi 3 minuti, e poi invece una domanda fondamentalmente a Bottasso, però può valere anche per gli altri. L'informazione proprio minima, bibliografica, minima, cioè l'indicazione dell'esistenza in italiano di quei 2 o 3 testi che ho nominato senza però darne l'indicazione. La citazione da cui sono partito di Bernardino di Sahagún si trova nella traduzione del colloquio dei 12 fatta l'anno scorso dall'editore Sellerio di Palermo. È un libricino, costò 8.000 lire, molto elegante come tutta la collana di Sellerio, ecco, ed è molto bello, molto importante, e anche molto bello perché inquadra bene in una postfazione, inquadra bene l'insieme. La postfazione è praticamente il riassunto di un grosso studio di un francese su tutto un po' l'evangelizzazione dei francesi, del Duverger, no, l'evangelizzazione francescana in Messico. Ah sì, allora Bernardino de Sahagún, I colloqui dei 12, Sellerio, 1991, 8.000 lire. L'altro testo a cui ho fatto riferimento, che a me è piaciuto molto e direi continua a piacere molto, quello del Monast, è originariamente in francese, nel 69, lui è un canadese, ed è On le croyait chrétien. Esiste poi una traduzione spagnola fatta in Argentina, ed è cristianizados o solo bautizados, mi pare così. Ed esiste poi una strana traduzione italiana fatta quasi subito da Jacobuc, tra l'altro fatta coi piedi, specialmente allora, cioè proprio con tutti gli errori di francese tipici, il pourtant che diventa pertanto, eccetera, eccetera, vabbè, ma insomma, e soprattutto però che lascia stare tutta la parte, la prima parte, cioè chiamiamola etnologica, no? Descrittiva di questa popolazione degli Aymara di Oruro, di un gruppo di Aymara boliviani, ecco, e riprende solo l'ultima parte di impostazione missionologica generale. Tuttavia anche in questa seconda parte ci sono diversi riferimenti alla prima, no? Per cui secondo me è un gran bel libro anche. Allora questo è Li credevamo cristiani. Fino a 2 o 3 anni fa esisteva ancora nella traduzione italiana, perché credo che sia quella francese che quella argentina siano praticamente introvabili. Questo è il primo punto, l'informazione. Secondo punto, ringrazio Bottasso per le attrici, erano quelle fondamentalmente direi marxiste, sia pure per il marxismo non ortodosso, ma insomma, dove allora la cultura faceva parte delle sovrastrutture, no? Delle sovrastrutture, e come tale non aveva la dignità, non aveva l'importanza per capire i processi storici reali. Questo è stato senz'altro un limite della teologia della liberazione. Con questo io andrei ad agio a dire, ecco, beh, intanto ad accusare i teologi della liberazione di essere stati, come qualcuno fa, razzisti, no? Cioè che a loro interessassero solo i poveri ma bianchi. Questo non è vero, lui non l'ha detto, qualcuno lo dice, no? I poveri bianchi, non è vero, interessavano tutti i poveri dell'America Latina in quanto poveri, no? In quanto oppressi, in quanto sfruttati, ecco. Dove allora il nero, l'indio e il bianco, eccetera, eccetera, erano varianti praticamente non rilevanti, ecco, no? Praticamente non rilevanti. Invece, ecco, l'attenzione al culturale, all'antropologico culturale, mostra la rilevanza invece di quelle che lì erano considerate solo varianti. Detto questo, credo però che non si possa ridurre la teologia della liberazione solo a un discorso sull'economico, ma che in quanto teologia sia stata davvero, direi, del povero come luogo fondamentale della rivelazione di Dio. Almeno io l'ho imparata, o l'ho imparato meglio, lì così. Ecco, allora vorrei questo da fare un piccolissimo chiarimento, non sulla terminologia del povero, ma viceversa su un'altra terminologia che oggi va di moda, ed è la terminologia dell'altro, l'alterità o l'altro. Quando oggi, negli ultimi anni, si parla di altro, soprattutto in riferimento all'America Latina, lo si fa sotto il magistero, a mio avviso in parte deviante, di quel libro fortunato che è il libro di Todorov, La conquista dell'America, e poi come sottotitolo appunto l'altro, la negazione dell'altro, eccetera. No? Todorov è un semiotico, è un semiologo, non è uno storico, comunque accoppiato con uno storico francese, messicano, no, il Baudot, si è interessato di America Latina, e in quest'opera ha fatto un buon lavoro, ecco, ma che cosa? Il cui limite, a mio avviso, ed è proprio il limite invece che non solo la cifra del libro, ma che è diventata anche l'aspetto più diffuso, più recepito del libro, ed è questo, che è stato negato l'altro, punto e basta. Non solo, ma l'altro in quanto appunto il diverso. e l'unica possibilità per non negare l'altro, perché l'hanno negato tutti, i conquistatori, i missionari, lo stesso Bartolomé Las Casas, perché ha amato, e l'amore non è fonte di conoscenza, anche l'amore è un modo di assimilazione dell'altro a sé, ecco, mentre l'unica ottica che davvero rispetta l'altro nella sua alterità, e dunque l'unica ottica che fa la verità delle relazioni, è l'ottica etnologica, è il prospettivismo etnologico. Ecco, io credo che questo sia una lettura riduttiva della categoria di alterità, perché appunto la riduce a una sola delle sue, come dire, delle sue versioni, ed è, ecco, l'altro come il diverso da me, l'altro costituito in una sua identità che esige di essere riconosciuta, quindi non tanto l'altro come il povero, ma dire anzi l'altro come, per così dire, il ricco, no, lui è lui stesso, no, lui è se stesso, ha una sua identità e nei suoi confronti il primo passo è quello di riconoscere questa identità. Va benissimo, ecco. Ma c'è un altro, e anche qui faccio un nome, così tanto per, si può richiamare qualcosa, ma se no non importa, l'altro di Levinas non è l'altro di Todorov, no, l'altro di Levinas è l'altro inteso proprio come il povero, certo, non solo come il povero economico, ma è l'altro in quanto ha quella, direi, è la non identità in cerca di identità, è l'altro in quanto negato. Gutierrez direbbe è l'altro in quanto non uomo o non persona. Questo può essere somigliantissimo a me. Io amo portare l'esempio, perché mi pare che possa chiarificare, no? Che del massimamente simile a me che fosse, sarebbe un mio fratello gemello, così uguale a me che neppure i genitori ci distinguono. Così uguale fisicamente, così somaticamente, eccetera, psichicamente, intellettualmente, che insomma bisogna metterci due nastrini, uno azzurro e uno rosso, per distinguerci. No? Bene, io credo che questo sarebbe il più profondamente altro da me, perché immaginatevi voi quale conflitto scatenerebbe tra noi due proprio la perfetta somiglianza fino all'identità. Eppure lui è lui. Lui non è altro in quanto diverso, perché è che più uguale di così non ci può essere, ma lui è lui, con una sua identità o con una sua identità, che può sentirsi minacciata proprio dalla totale somiglianza con me e viceversa. Allora, le dinamiche di rapporto, ma lasciamo stare le dinamiche, che è un termine già psicologistico, no? Direi proprio l'ontologia, se così si può dire, no? Del rapporto e l'etica. Del rapporto tra me e questo altro è proprio di lasciarlo, anzi aiutarlo ad essere nella sua alterità da me, che può essere differentissima o può essere uguale, comunque è la sua. Allora, su questa linea c'è tutta uno sviluppo della teoria, filosofia e teologia dell'alterità che non è quella che va invece sulla linea dell'altro come diverso. Le due non si negano affatto, però mi sembra, ripeto, riduttivo presentare come unica o come fondante la primazia. A mio avviso è il contrario, è che la vera accezione fondante dell'alterità è quella dell'altro da me in quanto non appartenente al mio mondo, anche se è perfettamente uguale a me. E quello mi pare. Ecco, e credo che la rivelazione biblica del Dio come come Dio di stranieri e di schiavi vada in questa direzione, no? Dell'altro come il non identificato, no? Vabbè. E allora finisco, la terza cosa è la domanda che volevo fare soprattutto a Bottasso, ma un po' a tutti. Io non sono del tutto convinto capisco la buona volontà e anche la plausibilità parziale della operazione sostituiamo all'Antico Testamento le tradizioni, così. Ma la cosa non mi convince, devo dire, l'ho fatto parzialmente anch'io nell'ultima Pasqua, mi Giovedì Santo di solito nella casa dove abito, dove c'è anche una piccola chiesa medievale, celebriamo con un padre gesuita la settimana santa con degli amici che vogliono farlo, e di solito facciamo precedere l'Eucaristia del giovedì da una bregè di Pasqua ebraica. Quest'anno invece abbiamo detto no, facciamo un rito andino alla Pachamama, con un sacerdote, un giovane sacerdote indio, che è vissuto in casa mia per un anno e mezzo, che adesso è a Roma dal Salesiani, no? Non si chiama più PAS, ma non importa. E che però torna a finire. Università bene, allora, Pontificia Salesiana. Università Pontificia Salesiana, ups! Ups! Ecco, è tornato e abbiamo fatto precedere l'Eucaristia cristiana da questo rito alla Pachamama, che egli per la prima volta, commosso, svolgeva con il ruolo di celebrante, mentre prima aveva sempre partecipato come, diciamo, un semplice fedele. Ecco. Bene, ma questo è stato, diciamo, una licenza poetica, io avevo la consapevolezza e l'ho detto che era una licenza poetica in occasione dei 500 anni, no? Che non è però sostituibile, mi sembra, ecco. E chiedo comunque, non sarebbe sostituibile il mito, la cosmovisione andina o altro, no? Alla, chiamiamola allora, cosmovisione ebraica, proprio perché forse non a caso, da una parte si parla di cosmovisione, dall'altra invece è una teovisione. Allora il problema che ho posto io, davvero a modo di problema ieri, di interrogativo, sulla... il rapporto tra il Dio di Gesù Cristo come Dio personale e invece diciamo un divino come personificazione delle forze cosmiche, questo problema vale anche per, non vale, dico, nei confronti dell'Antico Testamento, ma vale mettendo l'Antico Testamento dalla parte del Dio di Gesù Cristo, nel senso cioè che lo sfondamento della cosmicità del divino è uno dei punti d'onore dell'ebraismo. Ed è su questa base, che non è a mio avviso solo storica, per cui Gesù Cristo è nato ebreo e quindi vabbè ha parlato del Dio degli ebrei come di padre suo, ma è su questa base, come dire, ecco, dell'ordine del senso, cioè fenomenologica, che Gesù poteva chiamare il Dio di Abramo e di Isacco, di Giacobbe, padre suo, perché quel Dio era già il Dio manifestatosi, ecco, come il Dio che, sfondando la sacralizzazione, la sacralità della natura, si presentava come il Dio libertà e poteva si presentava poi scegliendo appunto coloro che erano non identificati con in nessuna forma culturale, cioè appunto gli schiavi ed ebrei in Egitto. Ho finito. Grazie, molto gentile. La parola allora a carissimo Presidente. Dunque, io ho reagito con molto interesse a tutte le cose finora dette dal punto di vista di provocazione teologica, anche se l'impostazione prevalente è stata storico-teologica, etnologico-teologica, io ho cercato di reagire più dal punto di vista di provocazione alla riflessione teologica. Rizzi ha già iniziato una pista anche teologica e io faccio apposta adesso per invitarli al convegno di Pisa, dove io avrò l'onore, ma soprattutto l'onere, di discutere proprio questo problema che lui ha posto. Sono un po' più ottimista di lui nel non contrapporre religioni cosmiche, dove l'appello al Dio nascosto o presente, animatore della natura, direi preminente rispetto alle religioni personalistiche che sono più del ramo biblico. Comunque io dubitativamente tratterò questo problema ed è un problema forse quello del prossimo millennio, il più delicato, il più universale problema del rapporto tra Dio personale e del Dio invece che sembra nascosto, dormiente nella natura. Io sono convinto che anche noi patroni, i testimoni del Dio personale, dobbiamo ascoltare questa invocazione di farlo sentire più vicino dentro la creazione. Quindi appoggio il suo ultimo intervento come dibattito che noi dobbiamo sentire anche provocato dall'incontro con l'America Latina. E segnalo che a Canberra, anche se in maniera fastidiosa e polemica, tuttavia è venuto fuori questo discorso di, attraverso l'appello allo Spirito Santo come presenza di Dio che anima tutta la realtà. Forse noi non abbiamo dato molta attenzione alla cosmicità, tutto sommato, come elemento essenziale del divino. Chiusa questa prima cosa che non avevo in mente di dire. È una rilevanza teologica che io sento e porto via, diremo, da questo convegno anche come stimolo. Un'altra invece rilevanza che mi era più congeniale immediatamente era questa nata dalla prima relazione di Rizzi, poi direi enfatizzata in seguito, ed era questa. Ecco, a livello antropologico e culturale oggi si dice giustamente che ormai bisogna superare l'idea, ecco per me il grande pallino in cui vedo la caduta del moderno, la fine del moderno, l'idea che ci esista una umanità a livello culturale, che è dentro un'unica quasi cultura, un'unica vicenda storica, per cui ci sono gli arretrati, i selvaggi e gli avanzati. Io leggo un anticipo di questa problematica che ormai, come ha dimostrato lui, è diventata attuale dopo la crisi del 60, dici tu, già a livello del 1492 dopo, insomma, cioè partendo dal Caperan, che pure cita Rizzi, ma seguendo tutto l'itinerario della teologia delle religioni non cristiane, individuo, sulla base, adesso non ho i testi, che è stato molto determinante la crisi della scoperta del nuovo mondo, perché è stata determinante come caduta di una concezione lineare, c'è un'unica storia manovrata da Dio, guidata da Dio, che avanza, per cui, attenti, ogni tappa successiva delegittima la precedente. E allora c'è il discorso, lo statuto della legge naturale non vale più quando viene la legge soprannaturale biblica dell'antico. Quando arriva il cristianesimo non è più valida la religione mosaica, eccetera. Cioè questo concetto che l'ultima tappa, del resto tra parentesi avremo un domani il dibattito con i musulmani, che loro ritengono che il Corano e Maometto venendo dopo ha, diremmo, invalidato o perlomeno deve integrare come superamento tutte le fasi precedenti. Ora per me è importante questo crollo. Il nuovo mondo ha messo in crisi questa concezione. Ma come? Non è già promulgata la legge evangelica? Ecco, questo crollo è per me già il prodromo di questa situazione culturale in cui noi siamo. Bisogna veramente uscire da questa concezione per cui il fatto che c'è un'unica storia della salvezza implichi che storicamente, a livello di fasi definibili, ci sia un inveramento tale che deprima e renda invalide le precedenti tappe, quasi quasi con un sottofondo di concezione millenaristica. Siamo arrivati agli ultimi tempi, per cui ecco, l'ho reinterpretata, ma non ho sentito, ma vorrei interpretata teologicamente anche questa idea che sta a fondo del colonialismo. Il Papa è diventato successore di Pietro, in alcuni testi ci sono, quindi ha ricevuto da Cristo il potere su tutta la realtà. Siamo già arrivati all'epoca escatologica in cui ormai la Chiesa è la sintesi finale, la ricapitolazione. Per cui il Papa è il padrone, distribuisce le terre, le dà l'uno all'altro. Ecco, vedo questa linea teologica molto importante da riprendere. Altra, terza, linea teologica importante, quella della peregrinazione geografica delle chiese, molto bella, ce n'è tu forse. C'è un tempo dei greci, c'è un tempo dei romani, c'è un tempo dei barbari, c'è un tempo la successione dei tempi. Io credo che qui ci sia un vero problema teologico da riprendere, proprio radicandolo nel dialogo di Paolo con gli ebrei romani. Dio permette che ci sia anche una resistenza, una perdita, una decadenza, un rifiuto, un'infedeltà per accelerare altre fedeltà. Una storia quindi che naviga attraverso la riflessione sul rapporto cristianesimo ed ebraismo in Paolo, si potrebbe, direi, sofisticare qualche cosa su questa linea più generale. C'era un ultimo punto che l'ho perduto, ma c'era un'altra idea che volevo dire. Mi sembrava il prossimo intervento. Scusate. Grazie, Don Luigi. La parola al professor Ciuriati, il quale introduce il discorso su Guadalupe. Qui quindi darò la parola a lei, Don Canova, che è unitario. Chiedo scusa, ma siccome devo citare alcune cose, per non voltarmi in continuazione mi sono permesso di appropriarmi del banchetto. Allora, quello che io sto dicendo viene dalla sponda della verifica empirica delle scienze sociali, per cui è una specie di test che sono stato invitato a proporre per vedere se oggi, come oggi, il fenomeno Guadalupe, pellegrini a Guadalupe sono circa 12-15 presenze ogni anno, è il più grande fenomeno. Così? Scusate. Vabbè. Allora, dicevo che è, da un punto di vista proprio macroscopico, il fenomeno più consistente di chiesa itinerante nell'oggi. Per cui la domanda che ci si pone è non soltanto se è un test di evangelizzazione o di non evangelizzazione questo fenomeno e come si inserisce sul prima, sulla devozione alla madre dea, che alla dea madre che c'era lì nel colle dove è venuto l'apparizione. Ma credo che si pone anche in una domanda fondamentale, se oggi c'è ancora o no domanda religiosa. Questo è l'argomento fondamentale che ci ha mosso. Ho portato anche un po' di documentazione sul tipo di interessi che attualmente abbiamo, il centro di ricerca ho messo tutto là, e chi desidera avere poi delle copie ne ho portate a disposizione, non fate che contattarmi. E allora, in questa domanda, c'è domanda religiosa, e dove si verifica? Nella chiesa stanziale o nella chiesa pellegrinante? Nella dimensione del cammino, che è l'archetipo, pare, fondamentale di molte grandi religioni, pensiamo a Benares, la Mecca, Gerusalemme, la stessa esperienza di Cristo che viene presentato, mi pare, nei Vangeli, come uno che da Nazareth va a Gerusalemme e lì ha la glorificazione. Il fenomeno stesso del Papa itinerante, un dato che possiamo semplicemente constatare, sul quale la valutazione da parte delle scienze sociali si dà a posteriori. Certo che è questa dimensione del pellegrinaggio, come si pone? Come anticamera di religiosità vera che viene gestita nella chiesa stanziale dagli addetti al culto, o è un fenomeno, quello della chiesa stanziale, come le stazioni di sosta nel cammino per eccellenza che era quello del pellegrinaggio medievale alla Madonna di Guadalupe, la strada come un viaggio nella cui prospettiva forse va riletta, forse più in positivo, la situazione oggi della domanda religiosa? Ecco, per dare una risposta a questo tipo di domanda, da circa 15 anni, 17-15 anni, è stato attivato, assieme al Centro Studi Antoniani, Centro Ricerca e Centro Studi Antoniani, Padova, un progetto di ricerca sui grandi pellegrinaggi, anche perché in quei tempi se ne parlava tanto di religiosità popolare, ma era fortemente condizionata da un approccio a prioristico. Chi parlava era la voce di Marx tramite le interpretazioni di Gramsci e poi delle scuole che avevano studiato il fenomeno nel profondo sud, però i grandi fenomeni che in quel momento tornavano a crescere, cioè i grandi pellegrinaggi, erano stati praticamente lasciati da parte. Allora abbiamo cercato di studiare questo fenomeno nell'ambito della comunicazione sociale e con una metodologia non univoca, ma a vari livelli, praticamente cercando di cogliere, anche con l'uso delle immagini come strumento di ricerca, perciò l'introduzione del mass media, la diapositiva e la videoregistrazione, per cogliere tutte le sfaccettature del comportamento. Per cui abbiamo cominciato a chiedersi come la gente è informata del messaggio, come il messaggio viene presentato quando loro arrivano al santuario, come il santuario li accoglie, quanta gente viene, cosa fa, cosa pensano dei pellegrini, gli addetti pellegrini, cosa i pellegrini dicono di se stessi, cosa fanno, registrando il fenomeno con la diapositiva e la videoregistrazione, e poi evidentemente cosa sentono, come probabilmente cambiano, qual è la loro storia di vita, cosa scrivono, perché c'è quasi sempre una corrispondenza devota, la gente con intenzione di preghiera lascia messaggi, cosa compra quando torna a casa. Abbiamo raccolto un'enorme quantità di materiale e dopo lo studio del primo fenomeno, quello di Sant'Antonio, ci siamo accorti che era importante costituire una base empirica di conoscenza studiando in tempi brevi altri fenomeni, cominciando da quello mariano. Per cui abbiamo fatto praticamente ogni anno, il primo anno Lourdes, poi Medjugorje serviva come fenomeno nascente, Fatima, Loreto, Our Lady of the Snow negli Stati Uniti, contemporaneamente facevamo Padre Leopoldo a Padova, San Leopoldo Mandic, però non come santuari mariani. Adesso abbiamo completato Guadalupe e abbiamo già cominciato Częstochowa. I primi risultati di queste ricerche sono in questo libro che è stato distribuito al primo congresso mondiale dei pellegrinaggi e santuari della Santa, fatto a Roma, organizzato dalla Santa Sede praticamente. E il progetto di ricerca, eccolo qua, su Guadalupe, prevedeva tutta una serie di approcci, però volevamo capire lo specifico di Guadalupe, come si pone sia nel quadro del cammino, diciamo, cioè della chiesa itinerante, ma anche nel quadro specifico dell'America Latina per il ruolo che Guadalupe ha avuto in questa prospettiva. Praticamente, tanto per non dilungarmi troppo, che cosa è apparso? Abbiamo riscontrato, adesso i dati sono appena stati conclusi, li stiamo analizzando perché questa è una prima relazione che ha consapevolezza di tutto ciò che è venuto fuori, ma che non ha ancora quantificato le impressioni. Ecco, questo libro è molto interessante del Monsignor Canova su Guadalupe dalla parte degli ultimi. Ci siamo incontrati quando Monsignor Sartori ha invitato me e penso anche Padre Canova a venire a fare questo breve flash. Ecco, con mia grande sorpresa ho trovato che già avevo letto evidentemente tutto quello che mi è stato possibile leggere a proposito della ricerca a Guadalupe, anzi dimenticavo di dire che tutte le nostre ricerche sono sempre state fatte, potremmo dire, a mezzadria plurima. Abbiamo sempre cercato, da una parte, l'esperienza e la sedimentazione della ricerca in un gruppo di ricerca che si era dedicato come specifico a questo tipo di analisi, e poi abbiamo sempre fatto la ricerca con i santuari, addirittura a Lourdes e a Fatima sono stati i santuari stessi che ci hanno chiesto di fare la ricerca, anche al Santo di Padova, e poi anche sempre con strutture locali. Per cui qui a Guadalupe la cosa interessante è che è stata fatta non soltanto, diciamo, il gruppo italiano, ma è stata anche la Basilica di Nostra Signora di Guadalupe e poi la Scuola Nazionale di Antropologia e Storia del Messico. E in questo abbiamo realizzato anche una certa unione ecumenica, perché la Scuola Nazionale di Antropologia e Storia non è certo ispirata da una visione religiosa o di religione di Chiesa. Ecco, la cosa interessante che ci è apparsa mi sembra che sia questa: quello che vive il pellegrino medio che va a Guadalupe corrisponde, mi pare, in maniera simmetrica con quello che della Madonna di Guadalupe è stato ricostruito nel corso dei secoli attraverso le registrazioni e le interpretazioni che del fenomeno, al momento di scaturigine e di evoluzione nei secoli, è stato raccolto e interpretato. Ecco, se io dovessi dare un titolo a ciò che emerge da questa ricerca, non è Guadalupe dalla parte degli ultimi, ma Guadalupe dalla parte dei figli. Guadalupe dalla parte dei figli. Cioè quello che emerge in ciò che dicono i pellegrini è questo. Intanto c'è una identificazione oggi completa con la figura di Juan Diego. Juan Diego non è, come a Fatima o a Lourdes, un semplice intermediario, è il primo di un grande percorso, di una grande massa, di cui gli attuali che vanno sono quelli dell'oggi. Juan Diego era un indigena, dicono loro, muy pobre y humilde, come siamo noi, la madre di Dio, perciò madre anche dei figli che neanche si accorgono di avere una madre, e si accorta che aveva bisogno, lo ha atteso al varco, gli ha detto: dei tuoi problemi mi prendo carico io, tu vai a dire al vescovo che tutti gli altri che hanno bisogno di me vengano qua a chiedermi di essere aiutati, perché io sono la madre e se non faccio il mio lavoro mi sento sprecata. Praticamente, se potremmo dire, da un punto di vista culturale, quello che mi è saltato alla mente è l'immagine dell'intervento della Madonna, come lo scrive San Giovanni, a Cana. È la stessa dinamica, direi, da un punto di vista proprio di modello socioculturale. Dopodiché la Madonna, essendo stata attenta e essendosi accorta, loro dicono: è perciò la nostra madre e la regina del Messico. E come tutte le madri, bisogna anche avere in presente il ruolo socioculturale che ha la figura della madre nel Messico. E perciò, come tutte le madri, noi l'amiamo e veniamo a salutarla, vestiti da festa, e ci esprimiamo, come siamo capaci, la nostra gioia e il nostro sapersi in buone mani. Ecco, credo che questo è ciò. Una cosa potrebbe essere interessante, io avevo pensato che potevano avere ragione alcuni degli esperti locali che mi avevano detto: la devozione di Guadalupe in realtà è una tinteggiatura esterna della vecchia devozione, del vecchio schema mentale, cioè la deessa locale, madre degli dei, che è stata in qualche maniera poi chiamata Vergine Maria. Allora abbiamo, come era successo anche altre volte, invece che porre questioni astratte e attraverso un supporto verbale, abbiamo mostrato alla gente le cose che loro conoscono, cioè le rappresentazioni della Vergine, come solitamente la conoscono, che entrano in rapporto con lei, e abbiamo detto di dirci per loro cosa è, stando zitti, un puro stimolo. E poi abbiamo chiesto se è vero che sono Madonne diverse, ne abbiamo messo due o tre Madonne, e appunto perché dicevano che hanno un concetto talmente feticistico locale, ogni luogo ha il suo Dio, che chiamano Madonna, chiamano, ma sono le specie di geni del posto. Quando abbiamo fatto questo tipo di domanda, non riuscivano a capacitarsi di che cosa chiedevamo loro. Ecco, quando io non ero affatto convinto che loro pensassero così, per conto mio la Madonna si è presentata e mi sembra abbia assorbito, non sostituito, ma realizzato al pieno quello che già era di implicito. Quando facevamo queste domande erano sempre fatte da persone di lingua locale, noi non facevamo la domanda noi italiani, e ci guardavano con un'aria di compatimento, quasi come dire: voi siete degli intellettuali fuori dal mondo, venite dall'università, non capite niente delle nostre cose. E con molta gentilezza ci spiegarono: no, è la solita Madonna, è la Madonna che appare nei posti diversi con funzioni diverse e si veste come quando... lei dice adesso è vestito così, quando dice messa si veste nella medesima maniera. Ecco, questo qui è la cosa. Io non vorrei aggiungere di più, mi permetto soltanto di leggere l'ossia con colui che di tutto è il punto di partenza e approdo, cioè veicolato dai simboli e dal messaggio del luogo sacro mariano, e viene specificato secondo la situazione, la condizione e la cultura di ogni specifico luogo. Eventuali altri chiarimenti, io sono sempre disponibile. Grazie. Monsignor Canova. Io direi, Monsignor Canova, che si è preparato, viene, è ragionevole, no? Ecco, poi, dopo, casomai fa questa domanda. Beh, le faccia, ma fa le domande semplicemente. Hai 2 minuti e mezzo, bloccami. Mi dici, ma se non hai domande coraggio. Chiare. Allora, ovviamente ha suscitato... No, faccia le domande. Poiché dal punto di vista del teoretico ha suscitato 1000 questioni, mi fermo soltanto su alcune di esse. Uno, cosa si intende per pellegrinaggio? Io sono un esperto di pellegrinaggio, ho pubblicato 2 volumi di esso. Esistono pochissimi libri sulla teoretica del pellegrinaggio, non sono stato minimamente invitato da nessuno, anche se una bibliografia nota. ma il pellegrinaggio vorrei sapere che cosa è per voi. Primo, cos'è tecnicamente? Non mi interessa dal punto di vista spirituale. Prima domanda. Secondo, a Cana di Galilea avviene precisamente il contrario. Come mai si può utilizzare il brano di Cana di Galilea letto in senso contrario? Terzo, perché ritiene che sia possibile fare domande astratte? Nessuna domanda è mai stata astratta. Grazie Padre Giacomo. Allora, Monsignor Canova, a lei risolvere questi problemi. Lei dica quello che ha preparato e se può risponda a queste domande. Venga qua per piacere. Ecco, grazie. Non più di 10 minuti per gentilezza. Io sono completamente lontano da quello che ha detto il professor Giuriani, perché per me il problema è di inculturazione. Il pellegrinaggio susseguente. Allora, leggo quello che la Siero. Il pellegrino che giunge oggi al santuario di Nostra Signora di Guadalupe, ai piedi del Tepeyac, molto probabilmente penserà che qui tutto abbia avuto inizio il 12 dicembre del 1531. Dio, in questa data memorabile, inviando la sua celeste ambasciatrice, la Regina del Cielo e Madre Nostra, secondo Nicamabua, e scegliendo l'indio Juan Diego come suo interlocutore, secondo lo stile di sempre, la divina condiscendenza, posò il suo sguardo su un emarginato dell'epoca per confondere i sapienti e i potenti di turno. Ma il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio della vita, è il Dio della vita, è il Padre di nostro Signore Gesù Cristo, cioè di colui che ha voluto inserirsi nella storia degli uomini perché essi abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni 10:10. Il 1531 non segna l'inizio, ma la continuazione di un lungo cammino di un popolo che in massa correva da tempo immemorabile al colle di Tepeyac per onorare colei che era considerata la madre vergine del sole, Huitzilopochtli, la suprema divinità del mondo azteca, colei che era chiamata la veneranda nostra madre, Tonantzin. 10 anni prima, cioè nel 1521, la brutalità dei conquistatori aveva cercato di interrompere il cammino di questo popolo, smantellando il santuario di Tonantzin e mettendo a ferro e fuoco la splendida capitale del mondo azteca, perché sorgeva appunto sul Tepeyac la famosa santuario di Tonantzin. Nell'anno 1531, in cui un illustre evangelizzatore del Messico, il vescovo Fray Juan Zumárraga, il primo vescovo, si vantava di aver fatto demolire 500 templi e 30.000 statue della religione dei Nahuatl, Dio sceglieva un altro cammino per l'evangelizzazione del popolo azteca, il cammino di sempre, la divina condiscendenza, come la chiama la Dei Verbum sulla scia di San Giovanni Crisostomo. Si era ormai giunti all'epilogo, alle ultime battute della storia di un popolo aggredito nella sua vita e nella sua cultura. Questi indios profondamente religiosi, che nella loro preghiera si rivolgevano al Dio dal volto materno e paterno, Meteot, neppure Sahagún con tanto di attenzioni clamantine è riuscito a scoprire che Meteot non voleva dire Dio due, ma il Dio dal volto materno e paterno, a colui per cui gli uomini vivono, come dicevano le tradizioni azteche, poteva fare sue le preghiere del salmista. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo stesso Zumárraga, che per un verso era un grande difensore degli indios, non si rendeva conto che la lotta contro la sua religiosità e la sua cultura era un attentato alla stessa sua vita. Infatti, due volte sono stati citati i dialogos dello Stos che sono stati scoperti nella Biblioteca Vaticana nel 1920, ma mai si è detto in questa sessione che sono terminati in maniera tragica questo dialogo con lo Stosse, cioè i Tlamantini hanno detto ai dodici: già ci avete tolto il regno, già ci avete tolto tutte le proprietà, volete anche toglierci le nostre tradizioni più sacre? Tenetevi il regno, tenetevi tutto e lasciateci morire. Dunque, era il Dio della vita che si rivolgeva verso questa situazione di morte. Lo stesso Sumarga, che per un verso era un grande difensore degli indios, non si rendeva conto che la lotta contro la sua religiosità e la sua cultura era un attentato alla sua stessa vita. Un uomo aggredito nella sua cultura, come potrà ancora vivere in pienezza, o meglio, come potrà vivere? In un ambiente in cui la natura era ostile, collina brulla, e un luogo in cui si era abbattuta la furia iconoclasta dei conquistatori, per un misterioso intervento della provvidenza ha iniziato la nuova vita. E allora due brevissime parole di presentazione di questa immagine. L'unico caso, dico, di metodo di inculturazione che si è realizzato nel nuovo mondo. Gli Aztechi non scrivevano, ma dipingevano, quei pochi codici che sono sfuggiti alla brutalità demolitrice dei conquistatori, riportano per esempio la nascita di Città del Messico e le prime espansioni. Il quadro, questa immagine, che non è una pittura, sono quattro pitture diverse che si sovrappongono, è una pittografia. Chi conosce i miti del popolo azteca, il mito del Quetzalcoatl, il mito dei delle quattro epoche del mondo, il mito della lotta del sole, o meglio, della luna e delle stelle contro il sole, e tanti altri miti che sono rappresentati in quel famoso calendario azteca che era stato terminato un 30 anni prima, 40 anni prima che Cortés mettesse piede nel Messico a Veracruz, e pesa 25 tonnellate, avevano cercato di demolirlo, non sono riusciti, poi l'hanno sepolto, poi è stato dissepolto, adesso si trova nel Museo dell'Ombre in Città del Messico. Quindi chi conosce i miti aztechi e il popolo Nahuatl, almeno i 62 popoli Nahuatl, li avevano nel loro animo, riesce a leggere il messaggio evangelico che si trova in questa immagine. Per esempio, secondo il mito delle quattro età del mondo che è rappresentato nel calendario azteca, dopo Montezuma ci doveva essere il terremoto alla fine del mondo. Qui c'è il Huitzilopochtli, cioè il Dio Sole, il quinto Sole, il Sole di giustizia, noi diremmo, che porta la Madonna, la quale a sua volta porta il figlio, ma non l'ha in braccio. Secondo il costume azteca, le donne azteche portavano dei nastri neri per indicare la gravidanza, quindi figlia del suo figlio. Il Quetzalcoatl, ecco qui non l'ho messo nel libro perché non avevo una fotografia che mi rappresentasse, il Quetzalcoatl sarebbe il serpente piumato, che tante volte viene rappresentato con le ali e il volto di un angelo, che non è un angelo, ma era colui che faceva passare un'epoca dall'altra epoca, ed era come il Salomone e il Mosè, il grande legislatore e il grande re pacifico, che era stato cacciato dagli Aztechi, e allora, secondo la tradizione, si era imbarcato verso Oriente e aveva detto sarei ritornato. E allora il Quetzalcoatl che porta la Madonna, e poi qui sole, luna e stelle che erano in lotta continua tra di loro, tanto che il sole ogni sera cadeva in un lago di sangue e poi passava attraverso la madre terra per iniziare di nuovo al mattino la lotta contro la luna e le stelle, qui sono rappacificati. Il volto non è il volto né di una donna bianca né di una donna india, teniamo presente che non c'era stata fusione a quel momento, ma è il volto di una meticcia. E allora si realizza il cosiddetto messaggio di riconciliazione, per cui chi va a Città del Messico potrà leggere nel Plaza de las Tres Culturas questa scritta. Il 1521, quando è stata distrutta Tenochtitlan e Tlatelolco, non è stata la vittoria per alcuni, padre, cerchi di concludere. Non è stata la vittoria per alcuni, la distruzione per altri, ma è stato la dolorosa nascita del popolo meticcio di oggi. Quindi con la Guadalupe inizia il fenomeno tipico dell'America Latina che non si è registrato nell'America del Nord, il fenomeno del meticciato. E difatti dopo pochi anni, mentre prima le conversioni erano pochissime, dopo si può dire l'80% si erano convertite. Se Bustamante, io termino con questo, il provinciale dei Francescani, che 40 anni dopo l'apparizione della Guadalupe, soprattutto di questa tilma misteriosa, invece di imprecare contro le persone che accorrevano al santuario e imprecare contro il secondo vescovo del Messico, Montúfar, avesse fatto un'inchiesta come hanno fatto i sociologi adesso, si sarebbe accorto che non veneravano la Tonantzin, ma la vera e veneranda Madre di Dio. Grazie, Monsignor Canova. La parola adesso a Don Bonifazi. E poi a Boff. E poi chiudiamo questo primo round, così possono rispondere. Dopo queste interessanti comunicazioni circa la spiritualità, la religiosità dei popoli latinoamericani, vorrei ritornare alle problematiche più direttamente teologiche, come ci aveva sollecitato anche Monsignor Sartori, e parto da una rilettura delle quattro relazioni alla luce delle problematiche poste da Rizzi, perché mi sembra che la relazione Rizzi aveva proprio lo scopo di individuare certe piste problematiche da cogliere all'interno delle relazioni seguenti. Mi fermo su due problemi che Rizzi aveva posto. Primo problema, leggo proprio dallo schema, unità e distinzione tra difesa dei diritti degli indios ed evangelizzazione. L'altro problema, il problema della religione indigena, in particolare la estirpazione della idolatria. Circa la prima problematica, unità e distinzione tra difesa dei diritti degli indios e evangelizzazione. Mi sembra che dalle quattro relazioni, in particolare dalla relazione Botasso-Morales, mi sembra che siano stati esplicitati due punti nodali. Primo punto nodale, la connessione oppure identità tra evangelizzazione e civilizzazione. Secondo punto nodale, soprattutto Botasso, la problematica antropologico-culturale, cosa può significare civilizzazione e la valenza di questo progetto di civilizzazione. Circa il primo punto nodale, io chiederei soprattutto questo. Noi, dopo il concilio, siamo molto sensibilizzati circa l'interrogativo evangelizzazione, promozione umana, evangelizzazione, liberazione, evangelizzazione, impegno per la giustizia, eccetera. Fino a che punto questa problematica è stata presente nel quadro storico, nel momento storico che è stato evidenziato, analizzato dai quattro relatori? Cioè, questi missionari erano coscienti della intrinseca connessione tra evangelizzazione e civilizzazione? Dalle relazioni mi sembra che la risposta sia positiva. Se fosse vero questo, allora tutto il problema diventa di tipo antropologico-culturale, cioè diventa il problema cosa poteva significare per loro civilizzare. E stante certi contesti culturali che oggi noi chiamiamo... Ci piacciono i francescani perché vivono come noi, parlano con noi mansamente, mangiano le stesse cose che mangiamo noi e ci prendono nelle spalle come madre e padre. Sono tornato 15-20 giorni fa dall'America Latina, sono stato a trovare un confratello. Qual è la scelta? È la scelta di tanti religiosi in America Latina in questo momento. Ecco, vive tra i poveri. Come diceva San Francesco, ieri faceva la relazione San Francesco, vivere come loro in servizio, e se il Signore mostrerà che in un certo momento è opportuno predicare il Vangelo, annunziate anche il Vangelo. Vivere, condividere è con loro. Non risolvo tutti i problemi, lo ha detto lui, non basta buona volontà, bisogna anche trattare di capire. No? Grazie Padre Bertrano. Rosso Morani, allora ringrazio se n'è andato il professor Grasso per aver ancora risollevato questa questione sul mito che io da profano ho avuto il coraggio di tirare fuori questa parola che è assai complessa e che ovviamente sappiamo che può avere diversi significati. E mi sono ispirato però molto, prendendo la parola così molto materialmente, un po' al senso più, diciamo, platonico, di dire mito come via di mezzo tra la semplice opinione e la certezza. E, bibliograficamente, come dato bibliografico, già che è stato richiesto anche di dare un po' di bibliografia su alcune cose interessanti, l'editoriale Alianza di Madrid-Barcellona, se non sbaglio, ha pubblicato da Hill, Juan Hill, tre volumi, senso, o quattro, su, c'è anche la traduzione, grazie professore, Mitos e Utopias del Descubrimiento. È veramente da leggere perché ecco, c'è tutta questa collana di miti, di pregiudizi, di idee false, di favole che gli europei da allora pensavano solamente. Ecco, il mito va preso, secondo me, come una forza ambigua ed equivoca. È un bene, è un vizio, è un bene e allo stesso tempo è un male. Un belga come Pau, che non ha, in pieno illuminismo, non ha conosciuto mai, né ha viaggiato mai in America, non è mai uscito dal suo paesino, scrive dei volumi sull'America, con delle descrizioni accuratissime, sul clima, sulle montagne, sulle persone, e non ha avuto mai una esperienza diretta del fatto americano. Polibio direbbe mancato storico, così non si fa la storia, già Polibio l'aveva detto quello. Boh. Ma è anche Brasile è stato scoperto nel mito, si parlava del Brasile alla fine del 1300, in alcune carte geografiche del 400 appare questa terra fantomatica del Brasil o Brasile, quando si arriva al vero Brasile, tra virgolette, la gente dice ecco Brasile, e il fiume, le Amazzone, io dicevo fuori un po' prima, scoperto da questo povero Orellana, che poi non passa alla storia con dando lui il nome al fiume, è il fiume dell'Amazzone perché da quelle parti si aggirano le Amazzone e via dicendo. Dunque il mito è una preconcezione che nuoce, in un certo senso perché, dicevo io, allontana, come diceva bene il professor Boff, allontana, fa partire con dei pregiudizi, no? E dunque non mi permette di cogliere l'altro in quanto diverso. Io ho capito chi sei, sei americano. E una mi ha detto l'altro giorno, Argentina, fa caldo lì, Sì, certo, fa caldo durante l'estate, fa caldo se sei a Buenos Aires durante l'estate, ma se sei a Bariloche avrai molto freddo. Ecco, Argentina, Sud America, fa caldo. Ecco, ancora oggi i miti continuano ad essere presenti, capite? Ma è anche il mito una forza motore che fa geografia e fa storia. Il mito del Dorado, così criticato e giustamente criticato, è il mito di loro, fa sì che questi uomini, dall'ammiraglio dei moscerini, come viene chiamato Colombo, in poi, abbiano un qualche cosa per restare in questa terra maledetta, che oro non c'era, almeno nelle mie parti, ed oro non c'era, c'era soltanto fame, c'erano indio che mangiavano agli altri uomini. Allora il mito di cercare questo dorado fa sì che alcuni partano da Asunción del Paraguay fino al Perù e camminando pazzi e morendo per questo mito fondano delle città, fanno delle scoperte, seminano la terra, seminano i ventri di quelle indie e sono nati i miei nonni o non so che cosa. Oh, questo per dire qualcosa sul mito che nuoce e aiuta. Una sola parola sui dubbi di Carlo, l'imperatore. Noi storici, per fortuna, non entriamo nelle coscienze delle, tantomeno la coscienza dell'imperatore, che immagino deve essere stata assai attribulata. Ma di fatto il dubbio indiano che penetra nella mente dell'imperatore, questo lo leggiamo perché si rivolge a Salamanca, chiede come si può fare, di fatto il dubbio indiano fa questionare, che d'altronde non è altro che continuare seriamente con il metodo scolastico di chiedersi, e non avendo la risposta nascosta, perché io mi chiedo maestro e so che chiedendo all'alunno io la risposta ce l'ho, no, Vittoria ed altri insieme a lui, credo San Tommaso, mi dispiace che il professor Grasso non sia qua, si domandavano sul serio, il utrum sit non era, vi faccio il giochetto della domanda ma io so la risposta, la domanda entra veramente nel cuore del teologo, si fa buona teologia, ed entra nel cuore dell'imperatore e chiede, è vero, non è vero, Carlo si chiede, non si chiede, America per lui è un problema, non lo so, ma lo sforzo indiano legislativo a partire del diritto è enorme, ed è un cercare, ma è un cercare permanentemente nuove formule, nuove leggi, una nuova cedula, come si può fare per arrivare a soluzionare questo problema e via dicendo. Dunque c'è tutto un movimento per niente, oggi che stanno così di moda, per niente dommatico. Il diritto e la teologia barcolano, avanzano con delle difficoltà. Finisco, carissimo professore. Qualche cosa, incontri di religioni, io direi forse senza formularlo, professor Rizzi, senza formularlo, quello che alcuni gesuiti, o almeno quello che si vede in alcuni testi di alcuni gesuiti, perché ecco, le generalizzazioni sono difficili da fare, forse scoprono che in America, ecco una vecchia verità, sono finite tutte le religioni, ecco, che il Tempio finalmente è stato distrutto, che le religioni non esistono più, che l'unico tempio dove si può visitare Dio è l'uomo e che perciò la giustizia non è un optional dell'evangelizzazione. La difesa della giustizia, di fatto, non ho trovato nessun documento che mi, purtroppo, come formulazione, la difesa della giustizia è insita, inerente all'evangelizzazione, perché il tempio di Dio è questo qua. E malgrado... Io sarebbe bello che oggi proclamassimo questo Dio che dubbio, questo Dio che interroga, questo Dio che non ha delle risposte, questo superamento delle religioni, che anche per il mondo moderno credo sia una sfida, finalmente. Per quanto il battesimo riguarda, è una mia intuizione, io la ringrazio, non posso dire molto di più, ma dico questo, vedendo alcuni testi dove parlano gli indios, che sono molto pochi e scelti, quando loro devono fare le difese, loro, dicono, siamo dei cristiani noi, Cioè il battesimo diventa per loro l'argomento princeps per difendersi, perché hanno capito che essere cristiani vuol dire che essere rispettati nei loro diritti. Così, nel testo che ho letto di questo indio che parla in Guaraní, in Sant'Ignazio, e anche quando gli indios devono difendere le riduzioni che i gesuiti, tranne due, ubbedendo degli ordini superiori, devono abbandonare. E loro dicono, siamo dei cristiani, questa è la nostra terra, qui morirono i nostri padri, questo è nostro. Dunque il battesimo e dei valori che implica, gli ha dato una consapevolezza che non gliela può dare nessun'altra cultura, per questo, ma è tutto ancora da rifare questo pensiero, ma io la ringrazio perché mi stimola a continuare con quello. Grazie. Io chiedo adesso la reazione del professor Braido in chiusura di questa sì. Sono reazioni così extravagantes perché a me non è stata fatta sì, nessuna ma anche le altre sono andate in questa direzione. Volevo dire intanto, giustamente collegandomi al Carlo I o V, che gli storici non leggono nelle coscienze, ma non dovrebbero leggere nemmeno i teologi. Non credo che siano più autorizzati degli storici, anzi gli storici, dovendo bene o male studiare anche l'uomo e fare gli psicologi, se fosse possibile, dovrebbero essere in grado anche di giudicare se un imperatore agisse solo perché ci sono banchieri di mezzo o può darsi che ci sia anche qualche elemento. Io questi estremismi non li condividerei. La storia è molto più flessibile, molto più attenta e capace, anche se è vera, anche a correggersi. Quello che che ha detto una cosa disdirla il giorno dopo. Le cose dogmatiche non vanno bene né nel dogma né nella storia, tantomeno. Volevo dire invece a Bottasso una cosa che c'è nella mia relazione. Credo che uno dei grossi danni anche per gli indios è stato il fatto di questa preclusione del sacerdozio, dell'entrare nello stato ecclesiastico, che è durato per quasi tre secoli. Solo alla fine del 1700 c'è un concilio che finalmente permette agli indios di entrare. Quello che non è avvenuto in Europa, i sassoni possono essere stati convertiti con la minaccia di tagliare la testa a quelli che non... Ma dopo pochi anni avevano già i loro cristiani, i loro martiri autoctoni, i loro sacerdoti, i loro monaci. Per cui i sassoni, per quanto schiacciati, hanno reagito e ci sono ancora. E ci è venuto anche Lutero, voglio dire. E questo credo che sia. E allora penso, mi chiedevo, sentendo lei, credo che la salvezza dovrà venire dagli indios. I teologi non verranno dall'Africa, dall'Asia, perché quelli saranno degli estranei, diciamo così, anche se hanno vissuto esperienze dolorose. Bisogna che vengano fuori e letterati e artisti e il clero e teologi. Acosta, nella sua De Procurante Indorum Salute, si augurava che ci fossero anche un'importazione di teologi, che venissero a studiare qui sul posto, che non stessero in Spagna a discutere sull'America, ma che andassero lì, che si ma sarebbe ancora meglio se i teologi nascono dalle etnie stesse, se no non credo che si potrà uscirne da questo, in fondo ci vuole un prestigio. E poi tante altre cose che volevo dire, c'era fatto qualche domanda che è in qualche modo in relazione difesa degli indios, evangelizzazione, che rapporto mi pare che è stato fatto insieme all'altro, civilizzazione, evangelizzazione, mi sembra che siano due problemi un po' distinti anche se sono simili. Io credo che la difesa degli indios nasce almeno da due motivi: da una parte come senso di coerenza cristiana da parte del missionario, predico la carità e la prima opera di misericordia spirituale e corporale non è solo proporre il catechismo, ma è anche di interessarmi della salute fisica, della sopravvivenza dell'indios. E poi anche una condizione di evangelizzazione, perché la violenza contro l'indios non è certamente una bella condizione esterna, volevo dire, non è una bella raccomandazione per il messaggio che io propongo. Quindi tutta l'insistenza anche di Acosta sugli scandali che viene dati dai cristiani con le loro violenze, le loro sopraffazioni. La civilizzazione invece, anch'io mi sono posto questo problema. C'è un discorso specifico sulla civilizzazione distinta dall'evangelizzazione. Per adesso rimango col punto interrogativo. Certamente quando loro dicono prima uomo e poi cristiano, ritengono che la civilizzazione è necessaria, è una condizione intrinseca necessaria perché ci sia l'evangelizzazione. Quindi è una concezione un po' funzionale. Non considerare la civilizzazione dell'indio per se stessa come valore autonomo. Però contemporaneamente penserei che nella loro coscienza, che dire essere cristiano, sì che simpliciter senza aggiungerci, come dirà Don Bosco e tanti altri prima di lui nel 700-800, buon cristiano e onesto cittadino, nel concetto di essere cristiano credo che loro intendano anche un uomo che è anche civile, che proprio in base anche ai comandamenti di Dio che apprende farà una vita più civile, più pulita, una vita di maggior rispetto per esempio delle leggi del matrimonio, delle leggi della giustizia, eccetera eccetera. Quindi penso che ci sia anche questa integrazione. Poi quello dell'estirpazione dell'idolatria, teniamo presente che anche nell'Europa, nei catechismi, e mi riferisco soprattutto a due trattati catechistici di due catechisti spagnoli degli anni 50, uno era anche tra l'altro il primate di Spagna, quello che è morto in carcere dopo 16 anni, 17 anni di carcere del Santo Ufficio, che è morto poi per interessamento della Santa Sede a Roma, che ha cercato di strapparlo all'Inquisizione spagnola, che nei loro due commentari, ma anche negli altri, loro si parla sempre, citando il famoso Salmo 95 o 96, versicolo 5, di gentium demonia. Gli dèi che non sono il Dio di Abramo e di Isacco e di Giacobbe sono demoni, e questo attraversa tutti i catechismi, ma non era una cosa specifica dell'America Latina, era dentro un pochettino, nell'Europa era detto di meno perché si supponeva che l'idolatria non esistesse più in quelle forme, però rimaneva dominante questa idea, nessuna preoccupazione di andare, non so, a inverare in qualche modo l'idolatria per vederci anime di verità. Di gentium demonia. Ecco, e finisco con questa bella parola. Auguri. Salve. Saluti. Una parola di conclusione. Primo, ringrazio i relatori di questa mattina, in modo particolare coloro che partono immediato pomeriggio, come esempio il professor Braito. In secondo luogo, ringrazio quelli che sono intervenuti questa mattina. Realmente, quanta ricchezza a livello di interrogazione sono nato. Dispiace, non c'è più il tempo per approfondire, perché il tempo è già scaduto per la mezza.